disarmata. Questa man per me fare cruenta, nulla in terra più uomo paventa. Fere figli di fere della non, della non. Non è vero.